excusa para cubrir al que abusa. Aquí llegó pa' molestarte esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas confusas, mente obtusa. ¿Qué importa si llevaba escote o blusa? El problema no es la ropa que usa. Que no eres el culpable, que yo soy una ilusa. Culpable es todo aquel que no acusa. Complicidad se llama este juego. Ya dejemos de hacernos los ciegos. Vamos, cabrón, que yo no valgo tu ego. Vamos, que aquí nos están prendiendo fuego. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso minifalda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos. Ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Si te dejó por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos. Ni una menos. Ni una menos, ni una menos. Pollera de tajo, ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, qué carajos. Vamos mujer, baila hasta abajo. Menea con esa pollera de tajo. Ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, qué carajos. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso minifalda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos. Ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Si te dejo por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos. Ni una menos. Ni una menos, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, cabrón, ni una menos. Buon pomeriggio a tutto e bentornate e bentornati al nostro appuntamento settimanale, o meglio, il nostro tè domenicale con le ribelli, qui su Radio ZM. Ciao a tutti, sono qua in conduzione con Maya e con me c'è DJ Mercu. DJ Mercu che funziona male, mannaggia la miseria. No, ovviamente abbiamo i nostri solici problemi tecnici perché oggi era fin troppo c'era tutto programmato. No, ma infatti, era troppo preparata bene questa mi cosa. Mi sembrava troppo bello per essere vero che sono riuscita a fare io la playlist, a scaricarla, a convertirla. Non funziona. Niente. Gente da casa. È, è la legge di Murphy, ragazze. Siamo ribelli, abbiamo problemi tecnici e per una volta che abbiamo fatto addirittura la scaletta. Stesura, la scaletta, ovviamente è andato tutto al 48. No, inevitabile fosse così. No, sì, inevitabile. Adesso sono arrabbiatissima. No, avevamo la scaletta con tutte le canzoni pronte, belle, le abbiamo anche ascoltate, invece cazzo. Mamma, mi viene da piangere. No, no, Mercu, dai. No, no, ma tanto ci si riprende, ci si riprende. Esatto, esatto. Va bene. Allora, prima di tutto ricordiamo i nostri contatti, così ci potete scrivere, potete contattarci e darci delle vostre idee anche oggi. E allora, il nostro Instagram, prima di tutto, le trattino basso ribelli, trattino basso ZAM. Instagram della radio, che è Radio ZAM Sud. Il canale Telegram per scriverci appunto in diretta e vi invitiamo a farlo, chiocciola Radio ZAM trattino basso chat, e la nostra pagina Facebook Radio Z trattino AM, e potete ascoltarci sempre sul nostro e trovare anche i nostri podcast al www.zam-milano.it Radio ZAM. Allora, Maya, oggi dove vogliamo entrare? Oggi parleremo in questa domenica piovosa di tematiche abbastanza belle e pesanti, ammettiamolo. Oggi giornata contro il bullismo e il cyberbullismo, e invece noi ci ritroviamo a parlare appunto di body shaming e body positivity. Ricordiamo appunto che il termine body shaming entra nel vocabolario Treccani nel 2018 come neologismo, e il significato è il fatto di deridere qualcuno per il suo aspetto fisico, nel 2018, lo ricordo. E però appunto di contro abbiamo questa nuova consapevolezza che ha aperto appunto alla creazione di movimenti opposti appunto al body shaming, che sono il body positive, un fenomeno spontaneo portato avanti da persone che si accettano appunto per come sono, e fortunatamente siamo sempre di più. E noi oggi abbiamo come ospite un personaggione che è Benedetta Lo Zito, e noi la conosciamo anche come Vita di B. Ma vi lascio la parola a Maya. Allora, perché parleremo di Vita di B, o Benedetta, meglio chiamata Benedetta, ma succederà successivamente nella seconda parte della puntata. La questione è che, allora, prima di tutto un aneddoto personale su questa persona: sarebbe potuta essere la mia migliore amica a Londra, l'ho scoperta 3 giorni dopo essere tornata a causa Hunger Games. Abitava anche, a quanto pare, Women of Brixton, era anche la situazione vicino a casa mia, infatti ero a Vauxhall. Molto bene, niente. Quindi l'ho scoperta esattamente 4 giorni dopo, mi sono mangiata le mani, ma dall'altra parte il suo profilo era così bello e così... è così incredibile che la rosicatura è durata poco, perché poi tutto il resto è stato tutto da cogliere. Perché il profilo Instagram di Benedetta, di Benny, che ormai ci chiamiamo così io e lei, è proprio quello che si dice il catalizzatore di ogni tipologia di lotta. È uno veramente uno di quei posti in cui l'intersezionalità si vive, si respira, e vedi anche come la si declina nel contesto personale, perché Benedetta, nonostante parli di cose molto politiche, ha la capacità di trasmetterle attraverso il quotidiano, attraverso una freschezza, attraverso la propria vita, mettendoci la faccia, mettendoci il suo corpo e mettendoci tutta la sua esperienza, perché ovviamente... lei è un'autrice, è un'operatrice, un'autrice, un'attivista, ed è anche fondatrice di progetti incredibili, di cui chiederemo meglio a lei di parlarci, ma appunto vorrei già iniziare a spoilerare qualcosa. Uno dei progetti più belli, credo, lei porti avanti, appunto Sans and Rip Culture, e appunto riguarda tutto il sostegno per le survivor, sostegno diretto a livello monetario e a livello psicologico, legale, eccetera eccetera. Sì, perché e, insomma, ci faremo una bellissima chiacchierata con lei. Benedetta, per capire. Sì, ricordiamo appunto che Benedetta si occupa anche di della sensibilizzazione appunto contro l'abuso, e non soltanto appunto legata a discriminazioni, ecco, ma si occupa anche di questo. E sì, da garbatella con furore penso sia l'intersezionalità fatta a persona. Persona, molto vero. Infatti vi invitiamo poi a, se non la conoscesse, andarla a cercare. Poi ovviamente sui nostri social vi daremo delle indicazioni dove trovare appunto delle informazioni, perché è veramente una persona che riempie la vita. Riempie la vita e dà un sacco di energia, ecco. Una persona molto molto positiva, tra l'altro. Ma ancora prima... Chi? Ma ancora prima? Ce l'ha fatta la Mercu, ce l'ha fatta, scusate, no, vogliamo comunicare che ce l'ha fatta. Ho risolto, la mia playlist c'è. Wow. Vogliamo mandare la prima? Così? Dai, così? Sì, dai, giusto del cuore. Dai, sì, la mandiamo. Senso. Sì, come quella che oggi mi ha emozionata di più da 10 minuti che la canto con chiunque, quindi... Sì! Quindi a voi. Lasciamo la sorpresa, Sorpresa. Sempre sorpresa. Ecco a voi la prossima tune. Jenna, nice, spider me, a tin thing. Ecco, questa era la canzone per cui mi dispiaceva di più se non si è sentita la mia playlist. È tutto il giorno che la canto a chiunque. Beh, il titolo qual era? Botelicious, Destiny's Child. Bellissimo. Evviva la adolescenza. Botelicious. Sempre. Ma torniamo a noi, sempre. Torniamo a noi. Benedetta. Pronto? Ciao. Eccola, eccola con noi. Buonasera. Ci siamo, buonasera. Buonasera. Buonasera. Benvenuta. Benvenuta alle Ribelli, siamo molto contenti di averti grazie. Qua, un sacco. E... grazie, grazie a voi per l'invito. Sì, non, voi spettatori non avete visto quello che è appena successo, ma in realtà noi non capivamo se lei fosse qua con noi, quindi in realtà stavamo ridendo perché non capivamo. Vabbè, stordite fino alla fine, rieccoci. Sempre. Maya? Sì, allora, ci sono assolutamente, se c'è Benny con me, io ci sono. Allora, quanto sì, amore, quanto amore. Enormi sviolinate, che comunque vorrei dire che sono state tutte cose dette molto dal cuore, quello che ho appena detto, però farei anche un punto più professional della situazione, perché va bene. C'è da dire quello che c'è da dire sempre. Lì è social media manager, inizia appunto con un profilo personale in cui si parla di viaggi e make-up, ma a un certo punto ti rendi conto che non ti sentivi rappresentata da un sacco di immagini mainstream, proprio anche di quel mondo lì, e quindi comincia a pubblicare, a creare dei contenuti con foto tue, del tuo corpo, e questo ha cominciato a spaccare veramente la rete. Hai fatto i compiti. Sempre. Sempre. Quella è la British Academia che ti porta a essere preparata. Però, prima di tutto, appunto, la prima domanda è: come stai? Come stai passando questo periodo qui, lì? Perché tu sei in Inghilterra. Sì, siamo anche un po' umani. Ma... è complesso, nel senso che in realtà lavorativamente sto facendo tantissime cose, sia in Italia ovviamente adesso online e basta, perché qui ho iniziato, finalmente sono entrata in un training ISVA, che sarebbe, per spiegarlo, sarebbe il più o meno un assistente sociale specializzato in violenza sessuale, appunto. Okay. E stiamo facendo anche un sacco di eventi qua con Women of Brixton, insomma in realtà sono parecchio impegnata. Io vi chiedo innanzitutto perdono perché io non parlo né inglese né italiano, ma un bruttissimo mix. Quindi, ma insomma non va mi sembra, guarda, in realtà stai parlando con una migrante che veramente struggle con il problema del trilinguismo in inglese, italiano e barese, quindi non è che sfondi una porta aperta, ne esiste. Ok, mi sento un po' più tranquilla. No, vabbè, perché io dico sempre, ridendo, quando mi invitano a fare qualcosa in cui devo parlare, dico, ma non si poteva scrivere, perché effettivamente ho questo problema. Bella questa. Però, sto migliorando. E quindi, diciamo, dal punto di vista lavorativo sto facendo una marea di cose, dal punto di vista umano basta, cioè ho bisogno di uscire di casa, basta. Immaginiamo. Non se ne può più, adesso sta nevicando tra l'altro. Ma dai. Ma lì la situazione bello, com'è? La situazione è che al momento sono leggermente calati morti e contagi, ma proprio leggermente, quindi secondo me un altro mese così belli in lockdown ce lo facciamo. Tutto, ok. Si spera, tra l'altro poi è arrivato il virus sudafricano, quindi non si sa bene ancora. Sì. Belli in salatora, tutti misti, bellissimo. Quindi adesso vediamo che succede. Va bene, noi saremo pronti e pronte e pronto in qualsiasi caso, tanto. Esatto, anche ad accoglierti quando verrai qua e ti speriamo di incontrarti qui anche. Magari. Volentieri, no, mi fermo spesso a Milano, cioè quando sono in Italia sono tra Milano e Roma, quindi sicuramente ci sarà occasione. Sicuramente una birrettina partirà, ok. Assolutamente sì. Assolutamente. Bellissimo. Beh, comunque volevo farti i miei grandissimi complimenti per il fatto che tu riesca a superare questo problema delle lingue almeno scrivendo, perché io ti giuro che pure scrivendo succede proprio ogni tanto escono, proprio così. Ma ci sono i correttori automatici, dai. Ma non lo capiscono il barese. Ci sono delle forme di non capisco perché, tra l'altro. Facciamo una petizione per inserire il barese tra le lingue. Assolutamente, ci sono Dorg, dai, decore. Spingiamola. Va bene, bando le ciance. No, che ciance, è umanità, non sono mai ciance. Allora, come dicevo prima, emblema dell'intersezionalità. Per quanto mi riguarda, io proprio ti vedo così. E infatti è iperinteressante il lavoro che fai sulla questione della grassofobia, fat shaming e di come questa piaga sia presente in molti più aspetti della vita quotidiana e dei social e virtuale di quanto ci si possa immaginare. Per esempio, penso al lavoro che hai fatto fighissimo sulla questione del pyramid marketing, su come appunto un determinato tipologia di prodotti con una determinata tipologia di narrazioni veicolano poi dei messaggi che di per sé sono pericolosissimi. E niente, mi piacerebbe se parlassi un po' di questo. Tu sei sicura che vuoi parlare di network marketing? No, scherzo. No, nel senso, come ti è venuta in mente l'idea? No, si gioca, no, anche perché devo uscire un mio articolo, tra l'altro, in settimana e già sono tipo là che faccio, ecco, sto parando le chiappe, però sì, considera che il problema del network marketing è un po' complesso, ci sono tanti punti sbagliati, dal fatto che insomma statisticamente non è possibile guadagnare con questo tipo di, tra virgolette, lavoro, e una delle cose, appunto, dato per rimanere nel tema di oggi, è che c'è un grosso problema di cultura della dieta, ovviamente in mano a persone che non sono specializzate e che non sono formate per parlare di nutrizione. Facendo proprio una breve, allora, per network marketing si intende quel tipo di schemi. In realtà non si definiscono schemi piramidali per il semplice fatto che in molti stati gli schemi piramidali sono illegali, no? Sono quelli per cui tu guadagni prevalentemente dal reclutamento di altre persone piuttosto, certo, che dalla vendita di prodotti. Mm-hmm. Sì, scusami. No, dicevo, è una formula di vendita molto usata, nel senso del sistema piramidale, sì. Tipo da prodotti, soprattutto, vabbè, non facciamo nomi, niente, mi fermo, basta, ciao. No, allora, il problema è questo, che tendenzialmente quando sollevi, no, questo dubbio sullo schema piramidale ti rispondono, ma il sistema piramidale è illegale, sì, anche l'omicidio, poi quando ti beccano ovviamente c'è un problema, e più o meno il senso è quello, cioè la base stessa per cui a un certo punto diventa molto più importante reclutare altre persone che vendere il prodotto, che di solito tra l'altro è un prodotto venduto anche a prezzi insomma molto più alti rispetto al mercato eccetera, e che sembra essere venduto soltanto all'interno dei venditori stessi, perché dov'è il guadagno? Il guadagno poi è nel fatto, nell'acquisto del campionario, ma insomma questa è una roba strettamente economica di mercato del lavoro, manco mi annoio più di tanto. Però insomma quello che è interessante sotto un certo punto di vista è l'approccio della diet culture in questa roba. Esatto. Perché fondamentalmente il oltre il 75% delle persone che entrano dentro uno di questi schemi sono donne. Per vari motivi che sono chiaramente quelli del fatto che non lavoriamo, che siamo disoccupate, che non abbiamo aiuti alla maternità, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ci sembra un'opportunità vincente sotto un certo punto di vista, poi ovviamente non si rivela tale. E l'altra cosa che ci attrae è che ovviamente noi subiamo una pressione sicuramente maggiore dal punto di vista della dell'aspetto fisico e della grassofobia. Quando parliamo di cultura della dieta, noi parliamo di un sistema che prevalentemente mette l'idea della magrezza. Ribadisco, non c'è assolutamente niente di male ad essere magri o magre o magro, ci mancherebbe altro, no? Però c'è l'idea che alla magrezza sia attribuito un valore. E al contrario a tutto il resto, in generale all'aspetto fisico, quindi alla cura del corpo, ma in particolare alla magrezza. E diciamo tutto ciò che poi è fuori da quest'idea viene considerato... Che vi sentite? Sì, sì. Ah, ok, scusate. Viene considerato erroneamente, perché appunto di una persona non è che sappiamo molto soltanto guardandola, sbagliato. Quindi il grasso ovviamente è pigro, non si prende cura di se stesso, può cambiare così dall'oggi al domani senza prendere in considerazione delle robe appunto molto più intersezionali, tipo la salute mentale, tipo la classe sociale, la provenienza, la genetica e una serie di robe. E, nel network marketing appunto molto molto tira la vendita di prodotti dietetici, che comunque in generale è una delle industrie più redditizie, soprattutto come acquirenti donne, e chiaramente c'è la doppia truffa un po', perché cioè robe di questo tipo, per esempio la detox non esiste, cioè il tuo fegato già lavora di suo, questo però lo dicono i medici, non lo dico io. Fondamentalmente se devi perdere peso perché c'è un problema di salute, te lo deve dire un medico, non è detto che tu debba avere un approccio, potresti anche aver bisogno di un approccio non prescrittivo. Io sono la prima che rischiava una forte obesità patologica e che poi con un approccio non prescrittivo insomma si è molto aiutata, tipo per esempio mi viene in mente Veronica Bignetti, che è stata al centro di, è una dietista che parla di approccio non prescrittivo, che è stata appunto al centro di polemiche la settimana scorsa e che secondo me invece è una validissima professionista e aiuta moltissime persone. Quindi insomma sì, per rispondere alla tua domanda, c'entra molto la cultura della dieta con il network marketing, ripeto è un po' una doppia truffa. Ecco, le diete, se hai bisogno di una dieta, io non credo nelle diete, credo più nell'approccio non prescrittivo, però in generale la tua salute dovrebbe essere messa in mano a professionisti. Certo, esatto. Mm-hmm. Assolutamente d'accordo, assolutamente. Ma poi la cosa che a me ha fatto sempre un po' specie sono state le tipologie di narrazioni implicate, cioè delle narrazioni veramente tossiche, ma amalianti, quelle iper reiterate, questa costante mettere a paragone di immagini prima e dopo anche di se stesse, in cui ti obbligano ad un certo punto a non pensarti, perché se tu entri a far parte di quel mondo lì effettivamente devi dire alle persone che sei cambiata, e immagini che spesso non corrispondono manco alla realtà, tra l'altro. Esatto, diciamo questa cosa. Esatto, no, ma esatto, ma a me è successo di vedere proprio persone che mettevano immagini, questi post prima dopo, e in cui il prima non era una persona non in salute, assolutamente, era una ragazzina di 14 anni con la faccia da bambina e un corpo che era normalissimo e normalissimo, morbido. Normalissimo, non in salute, non e io la conosco, cioè nel senso so pure che a 14 anni non stava male con il suo corpo, cioè nel senso. Ma poi anche la questione salute, allora non so se è nelle domande che ti eri preparata, però vabbè, se tu vuoi tutta libera, figurati, cioè nel vabbè. Senso. No, vai, se vuoi ne parliamo un vuoi. Attimo. Vai, beh, vai quello che vuoi, Benedetta, vai. Non mi dire salute. Così. Non mi dire così. Questione salute, in realtà anche qui è una storia un po' complessa. Mi riaggancio sempre al discorso della polemica di Veronica. Veronica ha scritto un post che è stato super controverso perché ha utilizzato una frase sicuramente particolare. Ha scritto: l'obesità non è una malattia. Ovviamente ha sollevato delle polemiche. In realtà ci sono tantissimi. Ora, io non sto dicendo che l'obesità è una malattia. Sinceramente, su questo punto di vista non ho un mio pensiero totalmente definito, devo essere onesta. Cioè io penso tuttora che quando pesi 300 kg hai dei problemi oggettivi e dovresti essere aiutato se possibile, se fa parte della tua volontà, che è un altro discorso ancora, perché non è che andiamo dalla gente a levargli le droghe, le sigarette, l'alcol eccetera, no? Cioè la salute è una scelta strettamente personale innanzitutto. E poi il proibizionismo non fa parte di queste zone. Meno male, meno male. Ne sono molto felice, però insomma, cioè perché tendenzialmente è sbagliato parlare in questi termini, per esempio nelle mie storie l'avevo ricondiviso, qui nel Regno Unito a un certo punto hanno deciso che era ora, perché effettivamente c'è un grosso problema di sovrappeso nella popolazione generale, e hanno deciso di iniziare a convincere la gente a fare scelte più salutari. Ovviamente non gli hanno mollato i bitoni detox o gli hanno detto non andate bene così come sei, come siete, merde, no? Cioè, shame on you. No, esatto. Cioè hanno fatto uno spot di persone grasse, che non è che devono essere meno grasse, che però fanno scelte, essendo che c'è dell'extra weight, su di loro fanno scelte più salutari, quindi vanno a correre, invece del takeaway si mangiano la verdura, cioè cucinano a casa più che si mangiano la verdura, cioè eccetera eccetera, ed è uno spot sicuramente molto inclusivo, ci sono anche delle persone disabili, e in generale sicuramente ti fa venire molta più voglia di alza il culo, stronzo, fai schifo, e una serie di cose che con cui normalmente ci si appella alla gente grassa, e questo è il primo discorso. Ripeto, su questa cosa devo farmi ancora io un'opinione, essendo poi tra l'altro una cosa che ho vissuto e vivo ancora su me stessa, perché trigger warning, si parla di disturbi alimentari, disturbi del comportamento alimentare. Io comunque faccio binge eating, non lo faccio più da 2 anni, da quando, ripeto, ho scoperto l'approccio non prescrittivo, e le diete molto restrittive mi avevano tra l'altro molto aiutata purtroppo in questo tipo di comportamento, e stavo salendo tantissimo di peso. Okay. No, quindi dicevo, è una battaglia che combatto quotidianamente. Il discorso dell'obesità, che non è una malattia di per sé, è una cosa molto complessa, nel senso che gli studi che noi conosciamo sul grasso sono studi fatti in un certo momento della vita da alcuni dottori molto obsoleti, tra l'altro, perché il BMI non era manco stato calcolato sulle persone, cioè parliamo di questo, e in realtà ci sono tantissimi studi, si chiamano fat studies, che stanno rivalutando. Certo, anche qui è ovvio che quando, che poi io questi programmi li odio, no, tipo Viti al limite eccetera, però è ovvio terribili. Che quando di una terribili. Violenza, cioè proprio di una narrazione violenta improponibile, invivibile. Guarda, sì, no, sono becerissimi, sono agghiaccianti, devo dire. Sì, Giulia Blasi li ha definiti prima in un commento Facebook che secondo me era meraviglioso, li ha definiti programmi che servono alla gente magra per sentirsi superiore. Ed è vero. Sì, ma non è solo a sentirsi superiore, è proprio sentirsi cioè, con la possibilità di dire: cazzo, tu non ti stimi, io te lo posso dire per come ti vedo, cioè, capito, è una cosa molto sì, più sottile, genera un giudizio, ti genera un giudizio basso e unilaterale, non ti fa vedere sì. Tutto il resto del contesto, non contestualizzano niente, fondamentalmente ti fanno vedere niente. Quello che vogliono loro e quasi effettivamente è vero, poni questo giudizio e poi ti guardi tu e effettivamente sì, sembra quasi per un far star meglio la magrezza, no? Sì, un po' pornografia del dolore, esatto, sì, esatto. Un po'... Che però si chiama sadismo, sì. No? Sì. No? Sì. Direi di sì. Credevo. No, poi tra l'altro, cioè, non tengono conto, appunto, guarda caso, poi si parla sempre di persone che hanno subito degli abusi, di persone che vivono in condizioni di estrema povertà, di persone che hanno grossi problemi psicologici, però ovviamente ci sta il dottore che li sgrida. What? Cioè... Sì, è vero, non c'è mai un aiuto poi psicologico, perché poi la maggior parte hanno delle frustrazioni incredibili, sono di solito cioè, chiusi in casa, non si fanno mai vedere, insomma, la vivono male con se stessi. E sì, ma proprio... la questione incredibile su questa storia qui è che nonostante i disturbi alimentari siano riconosciuti come un qualcosa che fa parte della salute mentale, l'approccio si è completamente distaccato, cioè come i bug di Skins, cioè su The Sims, che sbattevano la testa al muro e facevano sempre lo stesso errore, cioè vedi che c'è un qualcosa, l'approccio non deve essere così coercitivo, cioè deve essere sul consenso, cioè deve essere sulla... Cioè, deve essere completamente diverso. Sì, hai centrato perfettamente il punto. Non ci siamo ancora arrivati, ma intanto... Aiei e Brazov. Speravo lo dicessi. Quando faccio le prove dei microfoni, lo dico sempre, sappi. Scusatemi. Aiei e Brazov. Sì. Ci stiamo accavallando, scusa Benedetta. No, dicevo, sì, appunto, è estremamente becero e basso tutta questa campagna, insomma, che viene fatta. Sì. No, vai avanti. No, poi... No, diciamo la cosa, ecco, quindi a proposito del discorso sulla salute, cioè esistono in realtà numerosi studi che pongono l'accento appunto non solo su un approccio più tra virgolette multidisciplinare anche dal punto di vista della medicina per quanto riguarda la cura dell'obesità patologica, ma anche proprio il fatto che sì, ci sono dei fattori di rischio, ma non è che automaticamente vedi una persona, c'ha 20 kg in più, sta per morire, no? Cioè, che è un po' l'approccio che c'è ora, perché tante volte magari si tende anche, cioè io sono una persona che vive con 20 kg di sovrappeso, ok? Proprio sono il classico esempio. Per anni prima sono stati 10 e ovviamente con vari dottori che, cioè, i 50 grammi di pasta, il carbo block, non sto scherzando, cioè la Ducan, ho fatto un po' tutto. Fondamentalmente quello che succede è che torni al peso di prima e ne riprendi anche di più, un po' per il metabolismo e un po' perché non so come dire, fondamentalmente se soffri di binge eating e ti sei privato, poi di conseguenza la situazione peggiora. E quindi sì, scusami. Scusa, no, giusto per un piccolo corollario, magari non tutti sanno cos'è il binge eating. Potresti... Esatto. Sì, binge eating è fondamentalmente alcuni lo ridiciamo trigger warning, disturbi del comportamento alimentare, alcuni lo ritengono un tipo di bulimia. Semplicemente si mangia molto per sfogare qualcosa, quindi a livello emotivo. Poi non è detto che ci sia poi potrebbe essere insomma la risoluzione attraverso certi metodi oppure no. No, perché dicevo questo? Perché quindi in realtà cioè si tende a valutare l'approccio del grasso fondamentalmente corporeo in toto, quindi sulla salute mentale, ma anche proprio a livello di salute, cioè ci sono tante cose che nell'insieme, cioè c'è una struttura ossea, c'è un metabolismo, c'è la pressione, i livelli di colesterolo, la genetica, la tiroide, la massa muscolare, cioè ci sono tantissime cose che si dovrebbero valutare, no? Quando si guarda una persona e automaticamente decidiamo che non è sana. Uno, perché è sbagliato, no? E quindi diversi studi medici, accademici, eccetera, stanno rivalutando un po' questo tipo d'approccio a vabbè, sei sovrappeso, stai per morire. Per fortuna che siamo arrivati un po' alla rivalutazione, perlomeno. Cioè. Sì, assolutamente. Questo, cioè, io l'ho fatto a Gender Studies, l'articolo accademico su questa roba, ma in generale si fa. Insomma, si inizia a vedere in molti ambienti, anche medici. E poi l'altra cosa è sicuramente che aiuta anche avere un approccio di questo tipo, rispetto a, diciamo, più di vergogna, e soprattutto aiuta a non avere tutte quelle discriminazioni a livello medico che poi portano addirittura a diagnosi sbagliate. Cioè le donne grasse hanno molta più possibilità di sviluppare alcuni tipi di tumore, soprattutto quelli ginecologici, non tanto perché il grasso di per sé è un fattore di rischio, ha una parte di fattore di rischio nei processi di infiammazione relativa, ma tra l'altro è una cosa molto ancora in fase di studio, si può dire. Però la cosa, il motivo per cui le donne grasse non muoiono di più di cancro spesso è perché non vanno dal dottore, perché si vergognano. E molto spesso le donne e le persone grasse in generale, e molto spesso quando vanno dal dottore le cose gli vengono diagnosticate molto dopo, perché tutto è attribuibile al peso. Cioè, io ho sentito migliaia e migliaia di storie in questi anni di gente che mi è successo anche a me, tra l'altro, con la tiroide, ma in generale ho sentito una marea di storie di gente che dice: vado lì, mi fa male il ginocchio, sì, ma tanto è il peso, perdi peso, sì, ma fa meno lastra, no, tanto è il peso. Cioè, magari c'ho un tumore osseo al ginocchio, però non, cioè, ti dico che sono stanca, ti dico che sto male, che normalmente non sto così, ovviamente è tutto perché sono sovrappeso. Ecco, diciamo che cambiare questo approccio potrebbe anche salvare delle vite. Ecco. Certo. Sì, esattamente. Ma infatti vogliamo fare una sorta di "se li conosci li eviti" di narrazioni, di quelle di tutti i giorni che però vanno un po' decostruite, evitate. Cioè, appunto, una persona può star benissimo col proprio corpo a prescindere che sia sovrapposto o meno. Tu non devi giudicare, non devi pensare di poter credere che lei o lui o them stia male, prima cosa. Poi, non se li conosci li eviti. Aiutami. Sto pensando, ma sicuramente le microaggressioni, una serie, mi viene in mente il discorso autoironia, che è una cosa molto simpatica, no? Nel senso che spesso quando si parla di body shaming in generale, quindi non per forza soltanto di grassofobia, però le persone hanno questa specie di idea di avere un pass, no? E soprattutto sulle persone grasse, le persone grasse, c'è questo stereotipo che devono essere le amiche simpatiche che ridono, per cui cazzo, scusate, ma no, no, è vero, no, lo so, perché Benedetta, in realtà io ho avuto il processo opposto, nel senso che ho perso tantissimi chili recentemente, ma io in realtà ho sempre, sono stata molto bullizzata per il mio peso. Okay. Quindi riconosco tutto quello che stai dicendo. Sì, è per quello che ridevo, dicevo cazzo, è vero. Okay. Sì, ma questa è una cosa proprio, non so, adesso ne ha parlato Marina Pierri, la serie quella sulle Wings, che io non ho visto di Netflix, sì. A un certo punto c'è la Terra, credo che si chiami, che poi quell'attrice è bravissima, sta anche in Normal People, adesso non mi viene il nome, comunque insomma questa ogni 5 minuti gli devono ricordare che è grassa, ma letteralmente ogni 5, no, forse ne ha parlato Benedetta Geddo, credo, forse, vabbè, insomma, una di loro ne ha parlato. Sì, di questa narrazione veramente terrificante di questa ragazza che insomma è una fata come le altre, ma sti cazzi, fondamentalmente grassa, e quindi ogni 5 minuti gli deve arrivare la battutina, perché cioè, e ci deve per forza ridere sopra, perché deve essere quella, si deve per forza, esatto, ridere sopra, ovvio. Deve essere mite, deve essere accogliente, deve essere, perché in fondo se non la prendi così non c'hai un posto nella società. Ecco, questa secondo me è un altro dei grandi stereotipi da evitare. Se li conosci li eviti, ora non avete più scuse, ascoltatori, ascoltatrici, ascoltatoru. Cioè io posso ridere del mio aspetto fisico con chi ne, cioè con chi, a chi ho dato, diciamo, se ho dato il mio consenso a riderci, cioè dare per scontato che la persona grassa sia quella che sta lì a farsi dire bella pagnottella de zia, do cazzo sta scritto. No, anche no. Adesso va benissimo. Prendiamo una pausa, pensiamo un po' di... vediamo come continuare e andiamo avanti con una canzone adesso. Prendiamoci una pausa. Eccola. Vai. Because you know I'm all about that bass, about that bass and no trouble. I'm all about that bass and no trouble. I'm all about that bass and no trouble. I'm all about that bass, about that bass. Yeah, it's pretty clear I ain't no size two, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys are chasing, all the right junk in all the right places. I see those magazines working on Photoshop. You know that stuff ain't real. Come on and make it stop. If you got beauty, then raise them up, 'cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. My mama, she told me, don't worry about your size. She said, boys, I got a little more booty to hold than I. You know I won't be no stick figure, silicone Barbie doll. Because you know I'm all about the bass, about the bass, no treble. I'm all about the bass, about the bass, no treble. I'm all about the bass, about the bass, no treble. I'm all about the bass, about the bass. I'm bringing booty back. Go ahead and tell those skinny ladies that. Nah, I'm just playing. I know you think you're fat, but I'm here to tell you every inch of you is perfect from the bottom to the top. Hey, my mama, she told me, don't worry about the size. She said, because you know I'm... I'm all about the bass, by the bass. I'm all about the bass, about the bass, no treble. I'm all about the bass, about the bass, no treble. I'm all about the bass, about the bass, no treble. I'm all about the bass, about the bass. E questa era All About a Bass dei Postmodern Jukebox. Bene, che bella. Bella, sì. Vero? Bella, sì. E Benedetta, torniamo a te. E questa era un po' dedicata a tutte noi ragazze, questa canzone. Ci sta tantissimo. Ci sta, molto molto bella. E, allora, stavamo parlando di, se li conosci li eviti, un po' di vari stereotipi da dover decostruire, ma così lampo, giusto quella roba che tutti credono di sapere, in realtà non sanno un cazzo di niente, perché non è detto che lo sappiano. Quindi, ricapitolando, lo stereotipo dell'amica, amico, grasso, simpatico, molto autoironico, non sta scritto da nessuna cazzo di parte, e... Esattamente. Bisogna smettere di vedere robe che producono questa narrazione, e non è detto che stiano male. E poi cosa altro si può aggiungere? Cos'altro si può aggiungere? Ma secondo me, a livello di stereotipi, anche un'altra cosa molto, molto particolare è l'assunzione. Questo vale per tutti i tipi di corpi non conformi: è l'assunzione sui comportamenti sessuali. Mm-hmm. Gli stereotipi sulla sessualità, secondo me, sono agghiaccianti, nel senso. Allora, a parte che, vabbè, ovviamente come società, poi anche qui ci sono i gusti personali, e su questo direi che non si discute, nel senso che se a te piace scopare solo con gente magra va benissimo, tuoi. Cioè. ci sta che sicuramente come lo siamo noi anche, cioè come tutti abbiamo probabilmente dei canoni che in parte sono nostri, in parte ci vengono ma comunque imposti. Neanche sì, ma comunque non è che puoi scopare contro voglia. Insomma, no, ma mai. Insomma, no, se te piace, no. Te piace, in pratica. Esatto. Cioè, non è che mo, che sta i canoni della società, che sono tuoi, che so, insomma, ti deve piacere quello che fai davanti, normalmente funziona così. Però sì, sicuramente c'è quest'idea che tutti i corpi non conformi, no? Cioè dalle persone grasse alle persone disabili, non lo so, mi vengono in mente alle diverse people of color, o per esempio le persone transgender. Cioè diamo per scontato banalmente che hanno o una difficoltà nella sessualità, o paradossalmente dall'altra parte sono ipersessualizzate. Esatto, o ipersessualizzate e feticizzate. Sì. Sì, come se non ci potesse essere normalità, ecco, o semplicemente libertà. Sì, tra l'altro questo ha sicuramente delle implicazioni non male per quanto riguarda anche purtroppo problemi legati agli abusi, perché spesso se una persona non rientra in certi canoni, quello che gli viene risposto è vabbè, cioè ti lamenti pure perché magari ti hanno dato attenzioni, no? Che è una cosa orribile di per sé. E poi sicuramente... appunto, quindi questa perché diamo per scontato che ovviamente una persona ad esempio con un corpo non conforme, ad esempio grassa, debba baciare per terra se riceve delle attenzioni sessuali e sia in continua richiesta di attenzioni sessuali. Ricerca, esatto. E poi c'è la feticizzazione, cioè basta aprire un... Che è molto diverso dall'inclusione dei corpi, no? Prima in pausa stavamo parlando di attivismo post-porno, eccetera. L'attivismo in questo senso ha la possibilità di esprimere la propria sessualità, quindi non è un'oggettificazione del corpo non conforme, no? Ma è il corpo non conforme che si fa soggetto della propria sessualità. E quindi fa parte di tutta una serie di manifesti appunto del porno attivismo, eccetera. Invece è un po' l'opposto quello che succede sui siti che purtroppo sono quelli del porno mainstream, e cui purtroppo sono quelli su cui si educano i ragazzini, dato che manca l'educazione sessuale a scuola. Quindi questa è un'altra grande. E l'hai detto! E l'ho detto. L'hai detto. L'hai detto. E l'ho detto. L'ho detto. Grande. Lo grande sostenitrice di questo, sappi. Sì, no, va assolutamente cambiata la situazione, perché io non so se mi vedi, ma sto a picciare così proprio, boom on fire. Sì, sì, sì. La Mercus sta morendo. Si è messa la mascherina in faccia. Giusto che sia così. Adoro, adoro. No, però insomma, quindi i ragazzini si educano sui porno, e i porno mainstream, quelli accessibili a tutti, hanno le categorie di feticizzazione, no? Cioè, è vero. Quella non è, cioè, mi vengono in mente gli uomini neri che sono tutti, devono fare tutti determinate cose, sono tutti così, le big beautiful women che sono iper feticizzate in quel senso, le persone donne transgender iper feticizzate in un altro, e insomma questo non è essere soggetto della propria rappresentazione sessuale, ma appunto oggetto, no. Quindi questa è un'altra cosa. Stereotipi. Assolutamente. Ma l'abbiamo anche come base, come tappeto. Abbiamo il tappeto. Cosa abbiamo come tappeto? All about the base. All about the base. Ah, giusto, giusto. una domanda, così, bruciapelo. Vorresti dare una definizione di body positivity? Sì. Sì. Kind of. Sì. Sì. Tipo a scuola quando non la sapevi e prendevi tempo. Ma body positivity, poi c'è chi adesso non lo vuole più utilizzare come termine perché riguarda una positività che è un po' una positività forzata, però diciamo come concetto molto largo è la possibilità di esistere e vivere delle vite piene e felici indipendentemente dall'aspetto che ha il proprio corpo, dal proprio stato di salute, perché altrimenti diventa abilismo, e fondamentalmente cercando di ignorare il più possibile, attenzione, questa è un'altra cosa, vabbè adesso dico anche il perché, comunque insomma cercando di ignorare il più possibile la pressione dei canoni estetici che ti porta, perché ovviamente poi questa che cos'è? Semplicemente marketing, cioè marketing che fondamentalmente campa sulla vita delle persone, sulla vita letteralmente, perché non sono, cioè quando tu dai a un influencer che è già magrissima 50.000 euro per smerciare, cioè per farti pubblicità a un prodotto dimagrante, tu hai sulla coscienza una marea di ragazzine che banalmente seguiranno quell'esempio e già magre penseranno di dover dimagrire ulteriormente. Questo ovviamente è molto grave. Molti mi dicono, questa così la dico subito, non è la stessa cosa, cioè voi non incitate all'obesità. Questa è un'altra, a proposito di se li conosci lieviti, questa è un'altra, sono due cose profondamente diverse per due motivi. La pressione che si ha a livello di società per essere magri non è minimamente paragonabile alla pressione che si ha nella società per essere grassi, cioè nessuno guarda una persona grassa per come siamo portati a pensare, non perché ci sia qualcosa di male in una persona grassa, ma per come siamo abituati a pensare, nessuno guarda una persona grassa e fa che bello, voglio diventare così, cioè il nostro cervello automaticamente vede una persona magra e dice che bello, voglio diventare così. Non c'è niente di male a voler dimagrire, non c'è niente di male a voler cambiare il proprio corpo, questa era l'altra cosa, cioè non c'è niente di male se si cede a delle pressioni o se magari si vuole proprio essere così, no? Cioè se si vuole andare dal chirurgo, se si vuole dimagrire, se una non esce truccata, cioè se non esce struccata manco a fare la spesa, cioè fondamentalmente questo rientra nella libera scelta e non sarebbe femminismo altrimenti. Il problema qual è? Il problema è che è assurdo paragonare l'incitamento all'anoressia all'incitamento all'obesità, perché sono due cose, uno che hanno una pressione completamente diversa sulla mente delle persone, due, quando una persona, perché poi la cosa divertente è che si va, a un certo punto ti hanno dato loro un limite, giustamente, perché c'è sempre bisogno di definire da fuori le categorie marginalizzate, ti hanno dato loro un limite, cioè fino a un certo punto vai bene, sei curvi, sei formosa, sei buona, sei tanta, capito? Cioè, pure questa non è, è zero feticizzazione. Quanta carne che hai, di esatto, solito dico. Ma gli uomini vogliono toccare qualcosa, ma sti cazzi di cosa vogliono gli uomini, vabbè, questo è ancora un altro, però fondamentalmente no. Poi a un certo punto diventa, sì ma questo è troppo, sì ma questo è una cosa, fai vedere una cosa non salutare ora. Io non ho mai visto un attivista in Finifat, che sono appunto le persone molto grasse, farsi un video in cui ingurgita 10 pizze. Non è mai successo. Il giorno in cui succederà sarò la prima a dire sì, però magari non facciamo vedere i comportamenti sbagliati, perché quello è un disturbo del comportamento alimentare. Non l'ho mai visto, però vedo continuamente gente estremamente magra tirare giù pasticche dietetiche e dire alla gente che è normalissimo farlo. Quindi le due cose non sono minimamente paragonabili. Non solo, cioè la persona grassa che sta facendo vedere il suo corpo così com'è non sta dicendo che sarà così per sempre, non sta parlando del suo stato di salute, non sta dicendo che tu devi fare la stessa cosa, sta dicendo che in quel momento lei ha quel corpo e ha diritto ad essere accettata e ad avere una vita piena, sia se dimagrisce, sia se ingrassa, sia se non è in salute perché muore domani, sia se è in salute e arriva a 100 anni. La body positivity è semplicemente riconoscimento del diritto all'esistenza. Se per te hanno diritto all'esistenza soltanto le persone in salute, mettiti in testa che sei abilista. E qua concludo. Okay. Assolutamente d'accordo. Bellissima la definizione, finalmente da esclude la body positivity dalla questione abilista, finalmente. Molto molto molto contenta di questa chiacchierata. Moltissimo. Idem. Sì, alla fine non pensiamo a quanta energia mettiamo stando appunto ad ascoltare tutti i pregiudizi e i giudizi che ci mettono, perché noi potremmo avere una libertà maggiore sicuramente anche di azione delle nostre vite se non avessimo una preoccupazione di questa osservazione continua, no? Da parte di questi giudicanti e giudiconi appunto che ci stanno attorno e anche magari noi stessi, tornando appunto, sottolineando un po' Veragheno la settimana scorsa che diceva sì però accorgiamoci anche noi delle nostre responsabilità. E quindi la mancata cura di noi stesse, esatto, quindi vabbè, mandiamo una canzone con questa. Questa è stata una scoperta di oggi, vediamo un po'. Vai, a voi. Grazie, grazie, grazie, that's all right. Will choke his seat to me, your tummy. Oh, na grassa, call me lay. I'm on la vevo vista my. Allora mi feel my. Grassa bella lay for so. Cura cinco toe, e posena morrow. Oh, grassa, grassa, grassa, that's all right. Choco si come, ya choco me. Oh, faccio così come viaggia a me. Grazia e bella di Louis Armstrong. Ah, bellissima. Bellissima. Cioè, questa è... Grazie, Mercu. Questa è una scopertona di... Grazie, Louis. Grazie, Louis. Va bene, abbiamo... Benedetta, ti ringraziamo tantissimo di essere stata con noi. Sei stata illuminante e... molto carina, divertente, simpatica. E sei una forza. È stato fantastico. Siamo tue fan... Come... Un aperitivo alle 5 di pomeriggio, veramente, finalmente. Come la no, grazie a voi e speriamo di farlo dal vivo, sto aperitivo. Assolutamente. Ma voglia. Bene, mi ha fatto veramente tanto piacere. Buon proseguimento e ciao a tutti. Grazie. Ciao. Grazie anche a te. Ce la faremo tutto. Ciao. Ciao. Ciao. Bene, adesso... una nostra ribelle ha fatto una selezione di poesie, piccole poesie, di una poetessa che abbiamo già affrontato, che è appunto Rupi Kaur. Ricordiamo appunto che... Cioè, posso fare? Mi si sta spegnendo tutto? Ecco. E per chi appunto non la conoscesse, è una poetessa, scrittrice e illustratrice canadese di origine indiana che fondamentalmente spacca i culi. E è appunto una portavoce di discriminazioni, scrive denunce sotto forma di poesia e disegno. E appunto lei ha, abbiamo trovato tutta questa serie di poesie molto belle che le nostre ribelli, incredibilmente in una combo tra Edimburgo e Milano, ci hanno tradotto e riletto e recitato. Quindi voce a Giulia in inglese e a Maya in italiano. I'm not a victim of my life. What I went through pulled a warrior out of me. And it's my greatest honor to be her. He says you are opinionated, as if it's an insult to have ideas so big he chokes on the size of them. Never be quiet. The next time he points out the hair on your leg is growing back, remind that boy your body is not his home. He's a guest. Warn him to never outstep his welcome again. Live loud and proud like you deserve and reject the bullshit definition of what a woman should look like. Give me laughs, lines and wrinkles. I want proof of the joke we shared. Engrave the lines into my face like the roots of a tree that grow deeper with each passing year. I want sunspots as souvenirs for the beaches we laid on. I want to look like I was never afraid to let the world take me by the hand and show me what it's made of. I want to leave this place knowing I did something with my body other than trying to make it look perfect. I dive into the well of my body and end up in another world. Everything I need already exists in me. There is no need to look anywhere else. Home. Give me body. Give me body, body. Give me your body. Don't talk, don't talk, don't talk, don't talk, don't talk, don't talk, don't talk, don't talk, don't talk. Body language. Body language. Body language. Lui dice che sei categorica, come se fosse un insulto. Avete delle idee così grandi che lo fanno soffocare. Fai sempre sentire la tua voce. Non sono una vittima della mia vita. Ciò che ho superato ha fatto emergere la guerriera che è in me e sono estremamente onorata di essere lei. Vivi forte e orgogliosa come meriti e rigetta le loro definizioni di merda di come una donna dovrebbe apparire. Dammi le fossette e le righe. Voglio la prova delle battute che ci siamo scambiate. Scolpisci le linee sul mio volto come le radici di un albero che crescono in profondità al passare degli anni. Voglio macchie solari come un souvenir, per le spiagge su cui ci siamo stese. Voglio che sembri che non abbia mai avuto paura di farmi prendere per mano dal mondo e farmi vedere di cosa è fatto. Voglio lasciare questo posto sapendo che ho fatto qualcosa con il mio corpo, oltre a cercare di renderlo perfetto. La prossima volta che lui ti fa notare che i peli sulle tue gambe stanno ricrescendo, ricorda a quel ragazzo che il tuo corpo non è casa sua. Lui è un ospite. Mettilo in guardia di non oltrepassare il suo essere benvenuto un'altra volta. Mi sono immersa nel benessere del mio corpo e sono finita in un altro mondo. E queste erano le poesie di Rupi Kaur. Scusate, non ci stava la risata. Comunque Rupi Kaur è sempre molto brava, molto delicata. Qua succedono cose impreviste, meravigliose. Colpa mia. Mi ero dimenticata di un bottone. Io in realtà stavo parlando da mezz'ora, ragazzi. Questa è la verità. Vabbè, è il bello della diretta. No, bellissimo, infatti ci sta un sacco. E poi la cyber diretta. Poi sto facendo le gen 3. Poi Gaia mi ha fatto il culo l'altra volta. Mi ha detto: chi? Siete troppo serie. Chi? Gioia. Allora dobbiamo cazzeggiare di più. Quindi va bene tutto ciò. Sì. Ci sta, perché così siamo più simpatiche. Ce lo diciamo da sole. Va bene, Maya. Ci ha scritto, anzi Maya Mercu e Ribelli, ci iniziano a scrivere nel nostro pubblico. E Pabla, Benedetta, mi dispiace, non sei più con noi, ma in realtà lei chiedeva un'informazione. Lei diceva, ciao, vorrei chiedere come fare per evitare di essere medicalizzata dagli amici che mi vedono in sovrappeso. Evitare di attirare consigli non richiesti, se ci sono delle strategie o se invece posso solo mandare a fare in culo volta per volta diretti interessati. Allora, sicuramente mandare a fare in culo è sempre la strategia migliore, sempre. Sì. Poi se ci vuoi aggiungere un paio di paper, chiederemo anche a Benny direttamente dove si possono fare dei pipponi. Sì, esatto, fondamentalmente riuscire a far capire il proprio punto di vista è sempre un ottimo punto di partenza. E poi, vabbè, Pabla dice, serie Winx è una merda. Niente, le Winx ci denunceranno. sicuro. Netflix. Sì, Netflix. Tombera, Dam, sicuro. Quotata la SNAI proprio. Esatto. Niente, ma torniamo a noi. L'ultima cosina di cui vogliamo parlare oggi con voi è... sono... Che cos'è, Maya? Vai. Cos'è? È il libro delle belle di faccia. È il loro libro di esordio. Le belle di faccia è un'associazione. Sì. Nasce nel 2008, nel 2018, scusate, come un progetto femminista per diventare nel 2019 proprio una vera e propria associazione, che ha come scopo quello di riportare i corpi grassi al centro del movimento del body positive italiano, con particolare riferimento su fat acceptance e fat liberation. Mm-hmm. Quindi lo scopo di questa associazione è quello di favorire il confronto su questi argomenti, sia online che offline, creando materiale di supporto per chi vive in un corpo non conforme e cambiando l'attuale narrazione su body positivity attraverso la creazione di contenuti e l'organizzazione anche di eventi e iniziative sul tema. Ovviamente questo quando si poteva. Adesso il progetto 2021, fresco nelle biblioteche, nelle librerie, non biblioteche, scusate, dal 16 di febbraio, sarà appunto il loro libro, che si chiama Belle di faccia, e con le illustrazioni di Ilaria Lascura. E, insomma, è un libro che porta il loro stesso nome e sostanzialmente è come si concretizza la mission di questo progetto femminista. La campagna di lancio, di cui noi vogliamo farci megafono, vede la pubblicazione di tre post relativi rispettivamente ai primi tre capitoli. Cos'è la body positivity? Ma dove vai se la pancia piatta non ce l'hai? E non siamo tutti sulla stessa barca. Direi di questo libro, appunto, nonostante non parli direttamente della vita delle autrici, di cui nomi sono Mara Mibelli e Chiara Meloni, è un libro molto intimo e personale, dicono loro, dalla loro stessa pagina, che nasce appunto dalla possibilità di parlare di body positivity e fat acceptance nel modo secondo loro più corretto, lontano dalla stucchevole retorica del self love, riportando al centro del discorso i corpi grassi e non conformi. Ok, quindi appunto ha una visione dall'interno, insomma. Sì, esattamente, cioè se volete il principio è quel leitmotiv di fondo che ci piace sempre, se volete parlare di noi dobbiamo noi ad essere le persone che dicono chi, come ci definiamo, in quale modo. E chi siamo. Infatti voglio leggere soltanto sulla loro pagina, c'è scritto: vogliamo creare consapevolezza sugli argomenti, vabbè, sopra elencati, appunto, perché era appunto fat acceptance e fat liberation, e dice: favorendo il confronto sia offline che online, fornendo spunti di riflessioni e creando materiale di supporto per chi vive in un corpo non conforme, cambiando l'attuale narrazione sulla body positivity attraverso la creazione di contenuti e l'organizzazione di eventi e di iniziative a tema. In pochi mesi dalla nascita del progetto dell'associazione abbiamo già all'attivo diversi enti e collaborazioni con altre associazioni e brand, e siamo comparse su testate blog come Glamour L, Corriere, Roba da Donna, Il Mattino, Io Donna, eccetera. Volevo leggere questa cosa perché è interessante, nel senso che anche appunto tutto il mondo della moda, che porta avanti alla fine una discriminazione sul corpo, perché alla fine vediamo corpi tutti stereotipati fondamentalmente, anche le campagne pubblicitarie. Ico Gasparri è un fotografo che fece proprio una campagna e denunciò proprio tutto questo, anche perché è molto violenta. Tutte le campagne, vediamo come effettivamente guardiamo il lato positivo, c'è un'apertura sì, anche da questo mondo e dal comunicativo. Quindi vi suggeriamo di andare a prendere questo libro, e c'è anche in forma ebook, tra l'altro. Sì. E niente, oggi è disponibile in pre-order, mi sa anche. Quando esce, Maya? Il 16 febbraio. 16 febbraio. Da Mondadori. Mondadori. Siamo arrivati alla fine anche oggi. Di già. Siamo già arrivati alla fine. Di già. Sì, no. Di già. È giustissimo. Sì. Siamo in anticipo oggi. Siamo stranamente in anticipo. Che è successo? Incredibile. Perché stiamo misurando, siamo diventate più brave. Stiamo diventando meno prolisse. Così allora io darei che in anticipo. Che? Ma in realtà no, io direi di dare una lettura veloce a quello che dicono le belle di faccia sui primi tre capitoli del loro libro. Allora, appunto, il primo capitolo si chiama Ma che cos'è la body positivity? E il post appunto lo racconta con questa brevissima sinossi. La body positivity mainstream ha completamente oscurato la storia del movimento, tanto che molt credono che sia nato su Instagram intorno al 2010, che sia stato inventato da Ashley Graham o Jamila Jamil, e che sia essenzialmente una questione di self-love. Ma qual è esattamente la differenza tra i due movimenti? Lo spiega benissimo l'attivista Virgie Tovar in una sua recente intervista su Vice Magazine, dove definisce le tre dimensioni dell'ingiustizia corporea. 1. Intrapersonale, ciò che pensi del tuo corpo. 2. Interpersonale, come gli altri percepiscono e trattano il tuo corpo. 3. Istituzionale, come il tuo corpo condiziona la tua abilità di navigare la società, l'accesso al posto di lavoro e l'assistenza medica, il vestiario e gli spazi pubblici. Secondo Tovar, la fat acceptance è interessata a tutte e tre le dimensioni, con focus primario sulla dimensione istituzionale, mentre la body positivity mette l'accento sulla dimensione personale, sull'autostima e sull'immagine corporea, e in molti casi, aggiungiamo noi, cancella proprio la dimensione sistemica. Nel primo capitolo del libro ci è sembrato doveroso parlare delle origini della body positivity e della fat acceptance per rendere omaggio a chi ha creato il movimento che ha cambiato il meglio delle nostre, in meglio le nostre vite. Vi ricordiamo che il libro è già disponibile in pre-order e che arriverà in libreria il 16 febbraio. Il secondo capitolo si intitola «Ma dove vai se la pancia patta non ce l'hai?» ed è anche più breve, se abbiamo tempo. Sì, vai, sì, sì, sì, vai. Come ne abbiamo? Seno che entri in una coppa da champagne, che poi ci dovreste anche spiegare perché dovremmo mettere una tetta in un bicchiere. Stomaci piatti, fianchi sinuosi, sederi alti come l'Everest e marmorei che Michelangelo ti devi spostare. Fluenti capelli lunghi, pelli senza pori e senza rughe, nasi corti e sottili, labbra turgide. La lista dei desideri della spesa che ognuno di noi si è ritrovata a stilare mentre Severa osservava il proprio riflesso nello specchio potrebbe essere infinita. Queste sono solo alcune delle caratteristiche che vengono imposte soprattutto alle donne per considerarle belle e di conseguenza valide, degne di rispetto e di approvazione. Si chiamano standard di bellezza e non sono scesi dal cielo come comandamenti. Sono un prodotto del patriarcato, del capitalismo intriso, di sessismo, razzismo, classismo e abilismo. Mentre scriviamo, il correttore ci segnala questa parola come scorretta ed è tutto dire. Con una ricetta del genere, sicuro Severus Piton avrebbe tirato fuori una pozione in grado di uccidere la malcapitata con un minuscolo sorso. Se siete Potterhead, avete colto la citazione. Se non lo siete, non è questo il momento di diventarlo. Vedi J.K. Rowling, transfobica. Sono irrealistici, sono irraggiungibili, eppure per anni ci siamo tormentate. Come donne, paghiamo un prezzo altissimo per conformarci a questo ideale di bellezza. Ultimo capitolo e ultima Third perla. One. Non siamo tutte sulla stessa barca. Però aspetta un attimo, io me lo sono sempre chiesta sta roba della coppa di champagne. Ma perché? Ma perché sono pazzi? Ma cosa c'entra? Allora vi credo, io credo qua, credo però, perché dovrei andare a controllare, derivi dal burlesque, nel senso che voi dovete sapere che c'è un, per far diventare ballerina di burlesque, o specificatamente del Crazy Horse, tu devi avere una distanza standard tra i capezzoli, e le tette devono entrare in una coppa di champagne. Ok, ma sì, ma scientificamente perché è proprio provando, quella dello champagne? Che poi non è quella dello champagne in realtà. Tra l'altro, tra l'altro è più quella qua, del martini. Tra l'altro qua noi usiamo i flutti. Siamo luce, che le sono le... Abbiamo dei piselli al posto dei capezzoli adesso. Cioè, tipo le mucche, capito? Una minna nel flut. Una minna nel flut. Raga, proponiamo un'ora un post con la minna nel flut, sappiatelo. Giusto. Madonna, giusto. Che male. Vabbè, scusate, perché è una cosa che ogni tanto salta fuori, mi chiedo. E il terzo? Dovremmo chiedere a Helen Bottor Rouge, una prossima puntata sul burlesque, potremmo chiedere a lei. Wow, sì, ci sta. Ottima idea, guarda che si fa programmazione anche in diretta. Ormai, più estemporanea di così. Dirci qualcosa sul terzo capitolo? Third one, sì. Leggiamolo. Ultimo e terzo capitolo, non siamo tutte sulla stessa barca. Se scandagliate nell'archivio che è nella vostra mente, scommettiamo che noterete che anche la persona più bella, secondo lo standard di bellezza imperante, l'avete sentita, almeno una volta nella vita, lamentarsi del suo aspetto fisico. È assolutamente normale, se non siamo insoddisfatti di noi stessi, non compriamo prodotti per placare la nostra insoddisfazione. Ma questo non si riflette nel modo in cui venite trattate. C'è una grossa differenza tra l'odiare il proprio corpo e vivere, invece, in una società che lo odia e non manca mai di farvelo sapere. Anche se una persona grassa nell'ammirarsi allo specchio si amasse al punto da guardarsi anche con una certa concupiscenza, questo non cambierebbe, tutt'al più accentuerebbe l'astio che la società prova nei suoi confronti. Detto questo, però, noi crediamo che non ci sia niente di meglio di una lista bella folta di esempi per comprendere la differenza tra body shaming e stigma. Il terzo capitolo del nostro libro tratta di privilegio, differenza tra body shaming e stigma, che sono alcuni degli argomenti che più hanno scatenato le orde barbariche nei commenti ai nostri post. Tra 12 giorni lo troverete in tutte le librerie e potrete scoprire la folta lista di esempi che abita le sue pagine. Siamo delle grandi fan dell'elencare cose. Non vediamo l'ora che possiate leggerlo. Al contempo pensiamo ai piani B e fuga verso le minuscole del Pacifico. Andiamo a comprarlo in libreria subito. Subito. Valtteri, volevi dire qualcosa? Volevo dire di mettere una musica. Ma c'è sotto, sentite cosa vi ho messo per tappeto. Cosa ci avevo messo? Con le tue pagine nascoste lo vorrei gridare. Bello, bello impossibile. Eh? Cioè adesso proprio, no, no, cantiamo, siamo in... pure. Vai Maya, parla, siamo in onda. Cioè non sto to... faccio non è... sto giocando con i volumi. Cantiamo. Cosa volete di più? Oggi sta finendo in cacciara come succedeva all'inizio, eh. Dai, abbiamo questa tendenza a finire un po' in cacciara. Comunque voglio dirvi questa cosa. Scusate, ho appena fatto una ricerca e il seno a coppa di champagne è fondamentalmente stato il seno, è stato il seno ad ispirare la coppa di champagne, ed erano le tette di Maria Antonietta. Le tette, le Andrea, le Maria Antonietta. Le vabbè, ma contate che le tette hanno ispirato un sacco di cose. Cioè c'è un dolce buonissimo che, a detta di alcuni, abruzzese, secondo me è pugliese, gioia del Colle, che si chiamano le tette delle monache, e sono, ragazzi, le cose più buone del mondo. Sono questa roba di pan di Spagna ipermorbido con dentro panna e crema chantilly. Che se Dio avesse un sapore, faremo... sarebbe quello proprio delle tette delle monache, probabilmente. Allora, Dio finora è Dua Lipa e le tette delle monache. Dio secondo le monache, ovviamente. Possiamo lanciare subito un sondaggio ribelle. Chi è Dio secondo te? Dio, che cos'è? Chi è? Perché? Che sapore ha? Che sapore ha? Per Maya, al sapore delle tette, le tette delle monache. Ma poi chissà perché le monache. Io oggi sono la giornata del mio perché. Perché le monache? Perché? Oggi stai proprio curiosa. Perché? Oggi sono perché? Una piccola curiosona. Non lo so. È il mio lato bambinesco che esce e chiede perché. In realtà c'è la storia delle tette delle monache. Cioè si dice che questo pasticcere si innamorò di una suora, che ovviamente era suora, si era data al celibato e purtroppo non ha dato sfogo a, appunto, era proibizionista, non era di queste parti. E niente, quindi lui ha fatto queste cazzo di tette delle monache, che sono delle specie di pagnotte. Se le sognava e la diceva, notte. Sì, si diceva, sì, io me le immagino così, candide e dolcissime. Hai che capito. Ispirazione. Comunque faremo anche un elenco di quante cose sono state ispirate dalle tette. Uff, giusto. Sì, tantissime. Va bene, ragazzi, adesso siamo arrivati veramente alla fine di questa puntata. Sfortunatamente, perché ci stavamo divertendo, ma dobbiamo andare anche perché... È estremamente interessante. Ma come al solito le ribelli vanno a toccare assolutamente tematiche interessanti. Come al solito. Assolutamente. Quindi vuoi ricordare i canali per scriverci e seguirci? Ma dai, ma sì, ma vediamo. Allora, prima di tutto, chi non ci ha ascoltato, ci vada a riascoltare sui nostri podcast o al sito www.zammilano.it, Radio ZM, oppure al nostro profilo archive Radio ZM. Poi, ovviamente, se volete scriverci al nostro canale Instagram, le-ribelli-zam, o Instagram della radio, Radio Zammi Sud, il canale Telegram per scriverci anche in diretta ed essere sempre aggiornati, chiocciola Radio Zam chat, la pagina Facebook Radio ZM, e penso di aver finito. Bravissima. Wow. Sto diventando brava. Fichissimo. Allora rilanciamo l'appuntamento per domenica prossima, che sarà una giornata un po' speciale. Io non vedo l'ora. Lo sapete tutti che è San Valentino, la festa preferita di tutti, tutte e tutti. Tranne che della Mercu, probabilmente. E da me. No, sto scherzando, cinismi. ero ironica. Però no. Secondo me domenica prossima sarà una giornata bellissima, divertentissima. Tuttoissimo. E sarà... La radio ci riserva qualche sorpresa. Come al solito. Quindi rimanete connessi su Radio Zeta. Secondo me ci divertiamo settimana prossima. Ci saranno secondo me degli ospiti veramente interessanti. Interessanti. Vabbè, le ribelli hanno capito. Va poi, bene. Ciao. Ciao a tutti! A presto, ciao! A tutto. Domenica prossima! Alla prossima! This is the manifesto of Mother Monster. On Goat, a government-owned alien territory in space, a birth of magnificent and magical proportions took place. But the birth was not finite, it was infinite. As the wombs numbered and the mitosis of the future began, it was perceived that this infamous moment in life is not temporal, it is eternal. And thus began the beginning of the new race, a race within the race of humanity, a race which bears no prejudice, no judgment, but boundless freedom. But on that same day, as the Eternal Mother hovered in the multiverse, another more terrifying birth took place, the birth of evil. And as she herself split into two, rotating in agony between two ultimate forces, the pendulum of choice began its dance. It seems easy, you imagine, to gravitate instantly and unwaveringly towards good. But she wondered, how can I protect something so perfect without evil? It doesn't matter if you love him or capital H-I-M-M-M-M-M-M. Just put your paws up, 'cause you were born this way, baby. My mama told me when I was young, we're all on superstars. She rolled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far. Just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Give yourself prudence and love your friends, so we can rejoice the truth. In the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. A different love is not a sin, believe capital H I M. No way.